troupe del Fuggiasco stasera ha cambiato la scena. Sulla neve e sul fango lentamente arrancano piano e si lasciano indietro ridendo la ricca Milano. Carovana di gente da circo sbandata davanti alla nebbia, io li spio mentre il vino mi gonfia le vene e il fucile imbracciato aspetto Stambecchi. E un cavallo pezzato di nero compare nel buio. Tocca a lui, innocente, di aprire la lunga teoria. E la donna biondissima e nuda che cammina di fianco. Non c'è dubbio, è la sua segretaria che porta sulla schiena bianchissima delle autofatture. Lei amava il marchese ancor prima di fargli da schiava. E due negri in livrea celestina le frustano il seno. Poi due fari a limone attraversano il buio e una luce azzurrina sul tetto che gira fa capire al mio scarso vedere che è una pantera della polizia. E poi dietro una fila interrotta di un solo rumore. Sono uomini e spazzaneve della stradale. Poi di colpo mi vedo sbucare una Rolls tutta bianca con i vetri appannati da una pallida ombra di cielo. E lo vedo finalmente quel sigaro nero che brilla. E lui, lo Stambecco ferito che stavo cercando. Le racchette da tennis confuse dietro al sedile e i suoi occhiali da sole comprati sulla Costa Smeralda. Tra il soffitto e la pelle del tetto 40 miliardi di lire. Che le mucche domani tranquille potranno mangiare. Le bottiglie di whisky ricordo di orge lontane aspettano di essere aperte dal loro padrone. Industriale ammazza la moglie e poi fugge lontano. E due fabbriche chiuse in Calabria aspettano il pane. La polizia, malgrado gli sforzi, ha perso le tracce. Io li vedo passare davanti, intontito dal freddo. Le sue mazze da golf risplendono al sole. Quando lui si riaccende quel sigaro tanto temuto. 40 miliardi di lire nascosti tra l'acciaio e la pelle del tetto. Venderà le sue tazze d'accesso in Cina o in Giappone. Dopo aver liberato per noia la bionda compagna. E suo figlio girerà come un biglietto da mille i college inglesi. rivedrà suo papino sulla foto di qualche giornale. Ed il vino ed il sangue mi sale alla testa, non voglio sparare. E le lacrime confondono il cuore dal proprio dovere. Dove è andato il coraggio spavaldo di un bracconiere? La pietà mi fa dire di no a un leone che fugge. Il grilletto è bloccato dal ghiaccio, non voglio vedere. Uno sparo echeggia tremante per tutta la valle. Polizia uccide cacciatori di frodo sulla terra con masca. Lo stambecco felice e ubriaco vola